Allora, buonasera a tutti, iniziamo questa serata. Vi do il benvenuto, il mio nome è Patrick Burru e lavoro alla Biblioteca Provinciale Italiana Antonio Augusta, che ha organizzato insieme alla ripartizione Area Pedagogica e Innovazione questa iniziativa, o meglio questa serie di appuntamenti del Caffè Philosophique. Questa sera è l'ultimo appuntamento, gli altri sono andati, anche questo è andato molto bene, c'è stata una buona affluenza di pubblico, quindi la collaborazione con l'area pedagogica, qui saluto e ringrazio Esther per la collaborazione, ha funzionato molto bene, quindi speriamo di replicare anche nei prossimi anni. Io vi rubo soltanto un minuto per portarvi i saluti della dottoressa Trevisan, che è la direttrice della Biblioteca Claudio Augusta, questa sera aveva degli impegni di servizio, quindi non può essere qui con noi. Vi ricordo i prossimi appuntamenti della biblioteca. Questo venerdì abbiamo una serata molto, molto particolare, diciamo che la Biblioteca Claudio Augusta ha, diciamo, nei suoi archivi un fondo che è il fondo Focolan Furlan, quindi di storia e cultura della tradizione friulana, e questo venerdì proprio qui, sempre in questa bella sala, ospitiamo un'iniziativa dedicata alla musica friulana, alla musica popolare friulana, quindi chi fosse interessato può partecipare, l'ingresso è libero, sempre alle ore 18 qui al centro 3. Lunedì 15 aprile abbiamo invece la presentazione di un libro dedicato, diciamo, alla storia dell'Antidea, quindi chi fosse interessato al tema, sempre qui in questa sala alle ore 18 può venire, anche qui l'ingresso è libero. Io lascio la parola alla professoressa D'Angelo, a Denisa, ringrazio chiaramente la professoressa Izzo di essere venuta qui, di essere qui, di aver accettato il nostro invito. Mi resta che augurarvi una buona serata in questa bella sala, come vedete una sala polifunzionale intorno a voi. Questa sera c'è una presentazione del libro, ma intorno a voi c'è una mostra di fotografie, quindi poi chi ha voglia di dare un'occhiata può farlo chiaramente liberamente. Lascio la parola a Denise e vi auguro una buona serata e grazie ancora di essere venuti. Buonasera, benvenuti a quest'ultima edizione, insomma, del Caffè Philosophique, rassegna giunta ormai al settimo anno di programmazione. Io faccio un po' le veci dell'ispettore Felis, che tarderà un pochino ma arriverà, e quindi sarò forse un po' più sintetica. Ospite della serata sarà una delle più brillanti protagoniste del dibattito pubblico degli ultimi anni, rivolta al tema dell'identità femminile e della storia delle origini del pensiero femminista. La docente a Napoli, professoressa Francesca Izzo, autrice fra l'altro di numerosi volumi, tra cui quello che verrà a presentarci oggi, Le avventure della libertà, dall'antica Grecia al secolo delle donne, uscito per Carocci appunto nel 2016. Attraverso questa avventura davvero che prende spunto dal tema principale, che è quello della libertà, che si evolve dal pensiero dell'antica Grecia toccando i punti cardine e i filosofi più significativi del pensiero antico, del pensiero moderno e contemporaneo, la docente attraversa il tema della libertà e che si concretizza poi nel ruolo che la donna assume nella società contemporanea, che ruolo ha assunto la donna oggi nell'età contemporanea, lottando per questi diritti di libertà. Io non mi vorrei dilungare tantissimo in questa riflessione, lascio la riflessione appunto alla dottoressa Izzo e grazie per essere qui con noi, fa molto piacere, oltretutto fondatrice del movimento Se non ora quando, e siamo contenti di averla ospitata in questa rassegna filosofico-politica e storica anche. Grazie mille. I ringraziamenti li faccio anch'io, iniziando, perché queste sono occasioni per me preziose di presentare questo libro, che io ho una storia, veniva appena accennato, ho una storia anche accademica alle spalle, mi sono occupata anche di autori seicenteschi, Hobbes, Grozio, e di autori anche 800-900, ma studiati in ambito accademico. Questo è, e poi ho fatto molta, se volete, attività, impegno per il movimento delle donne, anche scrivendo. Quando sono andata in pensione, ho lasciato l'università, si erano accumulati dentro di me non so come dire, una specie di pentolone ribollente, e avevo bisogno di dargli una forma, cioè di mettere in ordine tutto quello che ero venuta riflettendo, pensando e anche combattendo, cioè l'aspetto, se volete, di riflessione teorica e l'aspetto pratico sono andati insieme su questo, e avevo bisogno di dargli una forma, soprattutto perché nel dibattito contemporaneo, attuale, ne abbiamo sotto gli occhi esempi quotidiani, è in corso un conflitto che insieme, appunto, intellettuale, teorico, ma anche pratico-politico, e ha a che fare con questa questione che può sembrare astratta, ma non lo è. Che cosa si intende per libertà delle donne? Noi abbiamo scontri, conflitti, diritti. Adesso è successo la settimana scorsa, a Verona è andato in scena un grande conflitto, si sono scontrate posizioni diverse, e che riguardano molto la libertà. Cosa si intende per libertà delle donne? Cioè, dopo conquiste di diritti, di diritti sociali, di diritti civili, di diritti politici prima, cosa significa il fatto che le donne sono entrate, per usare un'espressione classica, sono entrate nella polis, sono uscite dalla dimensione domestica e sono entrate nella sfera pubblica con il lavoro? Questa cosa può essere trattata soltanto secondo la grammatica e secondo la forma di acquistano dei diritti le donne che sono la metà dell'umanità e che hanno avuto una storia particolare che in questo libro viene in qualche modo riprodotta, ha a che fare soltanto con l'acquisizione di più diritti come qualsiasi altro gruppo minoritario che entra nella acquista la cittadinanza, oppure l'ingresso delle donne nella città apre una questione generale di come si considera la libertà e come è fondata la società. L'ingresso delle donne è qualcosa che mette in discussione i fondamenti su cui si sono costruite le nostre forme, le nostre regole, i nostri modi di considerare la vita. Eppure, appunto, su questa frontiera si gioca una partita e si scontrano posizioni diverse. Se posso sintetizzarle, la ragione che mi ha spinto molto a lavorare, a prendere, insomma, a scrivere un libro che va poi dall'antica Grecia ai giorni nostri, è una roba che, presa così, fa anche un po' tremare i polsi, quindi bisogna fare delle scelte, avere delle cautele metodologiche, tutta una serie. Chi conosce cos'è il lavoro di scrivere un libro sa che cosa questo significa, ma l'ho intrapreso perché lo scontro è tra una tendenza che appare dominante nel mondo contemporaneo di dire, fondamentalmente quello che le donne debbono fare e per cui lottare è diventare uguali agli uomini, combattere per l'uguaglianza e fondamentalmente tendere scomparire fino al limite del possibile. Cito Verona, la campagna di Non Una di Meno a Verona era sul transfemminismo, città transfemminista. Il termine transfemminista vuol dire di andare oltre il femminile, oltre le donne, e cioè cancellare finché è possibile questo marchio della femminilità e dell'essere una donna, perché questo è un retaggio di subalternità, di dominio e di condizioni inferiori. Bisogna superare. Oppure, e questa è una tendenza molto forte nel mondo contemporaneo, quello di dire, no, insomma, noi siamo uguali agli uomini, il femminile è un termine, usare il termine femminile mantiene ancora un che di negativo e disprezzante e di cui bisogna liberarsi. Oppure, appunto, la battaglia, cioè quello che sta dinanzi alle donne, per sé e per gli altri, è invece un'idea diversa di libertà, in cui si rende libera la donna. È una cosa, non ci si libera dall'essere una donna, ma si libera la donna, con tutto quello che questo comporta, che è una cosa, sembra un gioco di parole, ma è un qualcosa di completamente diverso. Allora, io per affrontare questo punto, perché tra l'altro questo significa anche discutere e mettere in discussione tantissima produzione teorica femminista. Okay. Bene, io per affrontare questo tema e cercarlo di non renderlo così astratto e di caricarlo anche della densità storica che si porta dietro, ho tracciato questo filo che il libro appunto poi percorre, andando alle origini. E le nostre origini del nostro mondo occidentale, questo è una premessa, è una considerazione che faccio di principio pregiudiziale, cioè mi occupo soltanto del nostro mondo occidentale, riguarda noi, cioè non riguarda altre culture, altre storie, anche se oramai sempre di più si intreccia. Però in questo c'è una coatela, come dire, di onestà intellettuale e professionale. Io conosco questa cultura, ho a che fare con questa cultura, sono qui dentro e mi posso occupare, diciamo, in maniera almeno degna di queste cose. Non oso affrontare altri ambiti culturali, altre storie. Poi però questo bisognerà farlo, perché oramai i rapporti, gli intrecci sono molto stretti. Ma per quanto riguarda noi, l'Occidente, il nostro Occidente ha un'origine, è la Grecia. È lì che si sono, come dire, hanno preso forma, si sono costruite idee, simboli, forme mentali, istituzioni che ancora sono presenti nella nostra storia e ancora ci condizionano. Hanno una storia lunga e un'influenza lunga. E allora, e molte cose si sono formate lì e arrivano fino a noi. E io, appunto, nel libro sono tornata a guardare al mondo greco, come nasce e come si sviluppa, perché ha degli sviluppi, il concetto di libertà in Grecia. Chi sono e di vederlo nella forma, chi sono i liberi e chi sono i non liberi, perché la distinzione nella libertà c'è, si fa anche per confronto, per opposizione, libertà e non libertà, o meglio necessità, liberi e non liberi. Io vado anche abbastanza velocemente perché insomma ci sono più di 2000 secoli, anche se io nel libro affronto soltanto degli snodi, dei grandi passaggi epocali che ne tengo. Allora, nel mondo greco la libertà appunto si costituisce all'interno poi della città, che è il simbolo della classicità greca, che è Atene. Sono i cittadini liberi, cioè coloro che partecipano alla vita della polis in maniera assolutamente libera dai vincoli di sangue e liberi dai vincoli del rapporto necessitato con la natura. I veri cittadini della città greca sono tutti coloro, maschi, perché non hanno hanno rotto, separato, creando proprio una frattura, una rottura con il mondo della riproduzione, del sangue, della generazione. Per arrivare a questo, in Grecia ci sono voluti parecchi passaggi, ma non lo possiamo dire qui, ma si arriva a questo: rompere questo vincolo. Sono cittadini tutti uguali al di là della loro origine, tutti uguali perché membri della polis, e non sono legati al rapporto di necessità con la natura. Non lavorano e non devono lavorare, possono solo combattere, sono guerrieri, ma non hanno nessun rapporto, non sono né lavorano la terra né sono artigiani né... Perché quello è il rapporto con il fare, con la natura, limita la libertà. Non si è liberi quando si è soggetti al lavoro, alla dimensione della natura. E quindi i liberi sono i membri, i cittadini. E chi sono i non liberi? Escludiamo gli schiavi, perché questo è più semplice. I non liberi sono le donne, perché sono legate alla riproduzione e alla casa, all'oikos. I due termini greci sono l'oikos e la polis, sono due luoghi distinti. E non sono liberi tutti coloro che sono legati ad una attività di tipo manuale, lavorano, i lavoratori. E quindi le due sfere che impediscono l'accesso alla libertà sono, per definizione, non libertà, sono la produzione e la riproduzione. I filosofi greci, ne prendiamo solo due, Platone e Aristotele, perché voi potete capire bene che questa questione di libertà e non libertà, chi entra e chi non entra, trattandosi poi di esseri umani, escludendo gli schiavi, perché gli schiavi venivano considerati non appartenenti. Aristotele li chiama strumenti che parlano, appartengono a una categoria diversa dall'umano. Ma il fatto che ci siano, appartengono alla non libertà, esseri che hanno l'umanità, le donne, i lavoratori, sono esseri umani, come i cittadini, come i liberi. Allora, come si fa a stabilire questa gradazione nella dimensione della libertà? Perché non possono essere considerati liberi al pari degli altri? E allora noi abbiamo due risposte che tra l'altro ce le portiamo dietro, le ritroviamo in forme diverse, ma significativamente simili nell'impianto di fondo, sono due risposte che vengono date da Platone e da Aristotele. Platone batte la via dell'uguaglianza nella sua Repubblica, perché sono filosofi, pensano anche a come dovrebbe essere organizzato il mondo rispetto a come, anche perché i filosofi arrivano quando la polis greca comincia a tramontare, entra in crisi. I filosofi sono pensatori che riflettono sulla crisi della polis. E Platone nella Repubblica dice che le donne possono essere guardiane come gli uomini, guardiane, cioè possono assumere le stesse funzioni degli uomini, sono uguali, a condizione però che le funzioni riproduttive siano assegnate ad altre, quelle che sono fuori dalla, sono ai livelli più bassi, che si occupano soltanto sorte di schiave legate alla riproduzione. Ci sono delle cose del nostro mondo attuale che ci può far pensare a qualcosa di simile. Poi ne parliamo dopo. Ma le donne sono uguali. Però dice in un passaggio del dialogo, sono uguali a noi, sono come gli uomini, con qualcosa di meno. Mai una donna potrà essere davvero uguale al modello, sarà sempre con qualcosa di differente che la pone, sì, siamo, credo che se mi rivolgessi alle donne qui presenti capiscano molto bene quello che questo significa. Aristotele sceglie un'altra via. Aristotele sceglie la via della differenza. Gli uomini e le donne sono diversi, sono differenti e svolgono funzioni differenti. Ci abbiamo una differenza che ordina gerarchicamente la società. Cioè, Aristotele, che anche per il suo impianto filosofico, cioè, riconosce questo. Le donne sono, hanno l'umanità degli uomini, ma svolgono funzioni differenti. Sono legate alla casa, sono legate alla riproduzione, sono legate a tutto ciò che ha a che fare con questo mondo della dimensione privata e domestica, mentre gli uomini intraprendono la via. È una struttura, quella aristotelica è quella che vince nella storia, eh? Della storia almeno della nostra civiltà e della nostra cultura. Ma questo è un, diciamo, hanno posto le questioni fondamentali. Io in questo adesso, una volta è il lavoro, anche il lavoro è escluso per ragioni appunto legate alla dimensione corporea. Tutto il mondo greco, guardate bene, e questo ci arriva fino a noi potentemente, opera una distinzione molto forte tra la dimensione corporea e la dimensione, come dire, teoretica intellettuale, le tripartizioni dell'anima, cioè il corpo è ciò che è legato alla natura, alle necessità naturali, alla mortalità. Il corpo è questo, vero? Ma pensate appunto, Platone, insomma, ci sono cose che tutto invece la dimensione spirituale, teoretica, cioè questo tra l'altro è un problema che compare sempre, insomma, ce l'abbiamo da qualsiasi considerazione che si fa sull'uomo, la doppia, se volete, la doppia natura dell'uomo, uomo finito e infinito, le possibilità spirituali, teoretiche che ha l'uomo. E però la vera libertà, la libertà, cioè ciò che corrisponde all'essenza più alta dell'umano, è ciò che trascende il corpo. E sono gli uomini, le donne sono legate alla corporeità, perché lo producono, lo curano e poi si dedicano alla cura del corpo morto. Sono le donne che si dedicano al culto dei morti. Voi ci avete una tragedia straordinaria, tragedia greca, che è l'Antigone, che è su questo la funzione della cura del corpo. Le donne sono, perché il corpo morto, il corpo umano morto, non può essere abbandonato alla pura oggettività. Io nel libro parlo anche di come questo viene trattato da un grande filosofo moderno, che è Hegel, che mette in luce esattamente questo che si gioca nella tragedia di Sofocle d'Antigone. Quindi, diciamo, il mondo greco ci lascia questa distinzione corpo-mente, libertà-necessità, volendo usare dei termini più moderni, natura e cultura, che sono tutti termini che noi poi ritroviamo nel modo come per le donne si è profilato il loro processo di emancipazione. Bene, accade una grande rivoluzione alla fine del mondo antico, del mondo classico, sia greco che romano, che è la rivoluzione cristiana, che è una vera rivoluzione, sotto il profilo delle idee nuove che emette rispetto al mondo classico. E una delle idee più straordinarie è quella della fine della distinzione sia territoriale, nazionale, poi vi ricordate, e sia dei sessi anche. C'è la famosa frase di Paolo, che non ci sono né giudei né gentili, né uomo né donna, né schiavo né libero. Siamo tutti uniti in Cristo, in Dio. Questo è qualcosa, un messaggio assolutamente di rottura, modifica in profondità, c'è cioè qualcosa di inedito che entra nella storia, ma non abbiamo il tempo di approfondire cosa provoca nei primi secoli del cristianesimo questo messaggio che è così rivoluzionario. Sono rivoluzionari i primi cristiani, terribilmente, pensano e scrivono delle cose assolutamente straordinarie, soprattutto quelli orientali, ma anche perché sono ferocemente contro l'imperatore, insomma anti-istituzionali, sono personaggi molto, e anche per quanto riguarda le donne, quello che pensano che possa accadere. Le donne nelle prime comunità cristiane hanno grandi funzioni. Comunque, questo poi si modifica, è uno degli stabilizzatori, e anche che, come dire, riporta le cose dentro gli albi più tradizionali, è Sant'Agostino, grandissimo, uno straordinario pensatore, potente figura. Non stiamo qui a dire, lo guardiamo soltanto da una prospettiva, poi ci si possono dire cose assolutamente straordinarie sulla sua forza di pensiero e di costruzione poi della Chiesa, insomma, che sfida, per sfidare i secoli, perché appunto si trattava anche di questo, c'era l'attesa che il regno di Dio era lì per arrivare, cioè c'era l'apocalittica, ma poi questo non accade, bisogna attrezzarsi all'attesa, alla lunga attesa. E Agostino fa questo e, diciamo, rimette nei ranghi le cose anche con l'uso di questa concezione del peccato originale, che si trasmette per via sessuale attraverso questa questione che doveva rispondere a un grande interrogativo di carattere teologico, perché c'è il male nel mondo, cioè liberando Dio, insomma c'era un problema enorme dal punto di vista teologico, e il peccato originale lo risolve, ma nello stesso tempo condanna le donne, la sessualità e le donne, perché si trasmette attraverso l'atto sessuale, il peccato, e le donne sono investite in maniera drammatica. E questo si trasmette, noi abbiamo secoli in cui questo assetto, sia il lavoro sia la procreazione, sono considerati qualcosa che è affetto, a questo punto, da una macchia, non esprime la vera umanità. Le donne e chi lavora non esprime la vera umanità, perché non è libero. E non è e perché non è pienamente umano, per questo non è libero. Io in questo tracciato, per far capire, perché questo io voglio spiegarlo, perché in alcuni casi io mi dedico molto, ci sono molte pagine dedicate a come si emancipa il lavoro e come cambia l'idea della libertà nel mondo moderno quando uno dei due soggetti che era stato sia nell'antichità sia in tutto il mondo tardo antico e medievale considerato un essere non pienamente umano, anche se il cristianesimo poi gli dà la prospettiva tutti figli di Dio e tutti poi uguali davanti a Dio, insomma questo c'era, ma nella realtà nelle condizioni invece non era così. Io dedico parecchio spazio a cosa succede con il lavoro e con i lavoratori, perché per far capire come nel momento in cui uno dei soggetti che nel mondo antico era escluso dalla libertà entra nella sfera della libertà, cambia tutto, cambia l'idea di libertà. Lo dico, lo porto come esempio per far capire che quando arrivano le donne, accidenti, se non deve cambiare. Perché con la modernità, e c'è un autore che io prendo come in segno dell'inizio del cambiamento di come viene considerato il lavoro, che si chiama Locke, John Locke, nei due trattati sul governo. Lui è una scintilla, poi ci vorranno un paio di secoli perché tutta questa roba poi acquisti una forma, ma lì c'è una scintilla, perché Locke in questo fonda la proprietà, il diritto di proprietà, che è uno dei fondamenti della nuova società che si sta costruendo, la società moderna capitalistica. Sul diritto di proprietà, Locke è quel filosofo che dice che esistono dei diritti naturali, che è quello alla vita e alla proprietà, e alla libertà e alla proprietà. E le due cose, proprietà e libertà, vanno insieme. E però, essendo un diritto naturale, cioè che non viene né dalla violenza e né da sovrano che glielo concede, cioè la proprietà non avviene attraverso un'appropriazione fisico-naturale e neanche da una donazione da parte del sovrano, perché gli altri autori avevano, ma è un diritto naturale, deve fondarlo, e lo fonda sul lavoro, cioè chi la proprietà nella sua origine è data dal fatto che uno si appropria del frutto del proprio lavoro. Quella terra che io riesco a lavorare, i frutti che io riesco a raccogliere, quello mi appartiene per diritto di natura. A questo punto il lavoro, che era considerato in tutto il mondo antico e in tutto il mondo medievale e il mondo premoderno e anche agli inizi della modernità, una roba che invece di nobilitare invece condannava ad una condizione subalterna e di inferiorità, che era anche una inferiorità di carattere etico, diventa invece il lavoro qualcosa che è fondamentale per la costruzione del nuovo mondo, diventa un principio della libertà, cambia la collocazione del lavoro e cambia l'idea di libertà, come dice un altro signore che io cito, uso nel libro, Benjamin Constant, che qualche un secolo più dopo Locke scrive, fa una conferenza alla Sorbona a Parigi nel 1818 intitolata sulla libertà degli antichi e dei moderni, che fissa la distinzione, è una conferenza, è un testo breve, ma come si dice, icastico, fissa la differenza tra la libertà degli antichi e la libertà dei moderni. La libertà degli antichi era appunto la libertà di partecipare alla polis, alla vita della propria città, partecipando alle decisioni fino a poi alla guerra, la partecipazione per combattere per la sua difesa, e mentre la libertà dei moderni sono le libertà civili, e la dimensione privata che diventa fondamentale nel mondo, e quindi la libertà di pensiero, la libertà religiosa, la libertà di poter avere una proprietà, di potersi occupare dei propri affari. Tutta la sfera civile della società civile, quella diventa la sfera vera di manifestazione della libertà. Sono le libertà private, è cambiata. L'ingresso del lavoro, perché è anche l'ingresso nella polis di nuovi soggetti, sono entrati quelli che lavoravano, sono diventati cittadini, c'è stata la rivoluzione francese in mezzo, non ce lo scordiamo, perché non dimentichiamo mai, le idee non nascono soltanto dalla mia, sono anche elaborazioni di processi storici che sono avvenuti di grandi cambiamenti. Bene, mio Dio, arriviamo. Allora, il lavoro è entrato e poi, piano piano, attraverso anche lotte, scontri, battaglie, in Occidente, un po' alla volta, ora in uno stato, ora in un altro, le donne escono dalla loro condizione di minorità, erano escluse dalla vita pubblica, dalla vita sociale, secondo, diciamo, vari livelli e anche intensità, ma insomma, in tutto l'Occidente la condizione delle donne era appunto quella di essere assegnate alla sfera domestica. Insomma, tanto per capirsi, insomma, qui ci sono più giovani, anche, appunto, anche meno giovani, ma insomma, tanto per avere delle indicazioni, in Italia soltanto nel 1976 è stato approvato il nuovo diritto di famiglia, che ha dato alle donne la pienezza delle libertà civili, dell'autonomia, nel senso che prima del 76 una donna era sottoposta in qualche modo a un'autorità maritale, cioè non poteva avere una entrare e vendere senza l'autorizzazione del marito, non poteva avere un passaporto senza l'autorizzazione del marito, insomma c'era una serie di questioni non da poco, per cui quando a volte noi diciamo ma questi che vengono da altri paesi sono sottomessi, insomma noi fino al 76 insomma le condizioni della donna c'era un grado di sottomissione non da poco. E diciamo un'acquisizione di diritti che progressivamente ha portato le donne in Occidente ad avere la piena uguaglianza degli stessi diritti di un uomo. Anche qui insomma, soltanto negli anni 60 poter accedere alla carriera di magistrato, e le motivazioni erano chiaramente legate proprio alla natura della femminile. Bene, ed è la situazione in cui ci troviamo oggi. È una situazione di uguaglianza formalmente piena, cioè ci possono essere delle maggiori in linea. La domanda da qui: questa uguaglianza piena dei diritti corrisponde davvero alle aspettative, esigenze, bisogni, desideri che le donne hanno di realizzazione di sé? E ulteriore domanda: questa situazione che diciamo prova a guardarlo nell'insieme delle nostre società, con questo processo, cioè di rottura della distinzione tra sfera pubblica e sfera privata e della distinzione funzionale che c'era tra uomini e donne, tu ti occupi della casa, io mi occupo del resto, i due sessi. Questa rottura e questa giusta richiesta di uguaglianza di diritti e di libertà, dal punto di vista del funzionamento del sistema, di un ordine, è una crisi, ha prodotto un terremoto. Ma così come è un assetto che forma un ordine per tutti noi accettabile. Io faccio non a caso, io sempre di più, ma in maniera assolutamente, secondo me, ignara di che cosa si sta parlando, sempre di più noi abbiamo questo lamento che viene, ma che riguarda tutto l'Occidente, il calo di natalità. Tutti dire, insomma, l'Occidente ha un calo che non è fisiologico. Cioè non è semplicemente, non si ricompone a una crescita statica, cioè non ricostituisce, è in caduta. E l'Italia tra l'altro è uno dei paesi con il tasso di crescita più alto. Il calo di natalità, gli studiosi lo analizzano, ma fosse uno. Studiosi, sociologi, anche molto attenti, ma fosse uno che almeno accennasse al processo gigantesco rivoluzionario che ha investito i nostri mondi, e cioè il cambiamento di posizione delle donne. Un cambiamento di posizione delle donne cui non è corrisposto sostanzialmente nessun cambiamento nell'assetto generale. Fondamentalmente si chiede alle donne di adeguarsi a quelli che sono gli standard e le forme costruite sulla presenza degli uomini nel mondo. Fondamentalmente questo, cioè, in qualche modo non bisogna tanto dire che c'è qualche differenza, perché questo potrebbe essere punitivo, penalizzante per le donne. E però appunto si producono degli effetti di sistemici abbastanza inquietanti. In effetti, per una ragione, la maternità è sempre stato qualcosa che aveva a che fare con una sfera altra. E guardate, una sfera altra, privata, in cui poteva intervenire in maniera autoritaria gli stati, e sono intervenuti gli stati autoritari a decidere in un'altra forma. Ma era una sfera, la maternità, insomma, non creava problema. Nel momento in cui si entra c'è questo cambiamento di assetto, quale considerazione deve essere fatta della maternità? Quale funzione, quale nuova collocazione questa deve avere? Oppure qualcosa che ha un carattere puramente privato e che ognuno, bene o male, si risolve nella sua dimensione puramente privata, ma anche sul piano simbolico. Noi abbiamo un simbolismo della maternità, che è un simbolismo fortissimo, se volete, nelle nostre cultura cattolica. La madre di Dio, la Madonna, cioè è una cosa enorme, che ha funzionato, ma e che però non corrisponde, perché è successa una cosa per quanto riguarda le donne, una cosa molto, molto fondamentale, importante per come cambia il rapporto. Perché per il passato, in quella condizione precedente, essere una donna ed essere una madre coincidevano. Maternità e, usiamo il termine, donnità erano identificate. Si era donne perché si era madre, si poteva anche non esserlo, ma era una diminuzione. La vera destinazione delle donne era quella di essere madre. Quello definiva l'umanità di una donna e la pienezza della sua realizzazione. In questo tutto il simbolismo potentissimo che ha accompagnato. Ma quando si rompe giustamente questa identificazione, le donne sono donne pienamente esseri umani e femminili, e sono anche madre, è una potenzialità, una grande potenzialità, ma non è l'identità femminile. Quando si apre questa questione, è qui che si apre la questione della libertà delle donne. Come dare rappresentazione simbolica, culturale, reale a questa nuova figura femminile che è entrata sulla scena, che insieme è una donna libera e che però è madre, e cioè è l'essere attraverso cui si trasmette la vita, che è una cosa straordinaria e che appartiene alle donne e che non può essere abbandonata. Ha bisogno di essere rappresentata e simbolizzata, perché questo significa che non ci dobbiamo più vergognare di essere madre. Perché questo è quello che accade oggi. Guardate, quello che accade alle giovani donne che cercano lavoro, o che lavorano, o che hanno il primo figlio, sono cose terrificanti. Essere madri è diventato un lusso nelle nostre società. Un lusso. Perché? Perché non c'è spazio. Non c'è lo spazio, io dico, simbolico, culturale, mentale, prima di essere pratico politico. Anche perché, e qui poi chiudo perché ho parlato già troppo, poi discutiamo, cerchiamo di, poi tanti punti non li ho potuti affrontare, anzi sono andata un po' così, perché c'è quella che ho chiamato una corrente dominante culturale che appunto pensa che, diciamo, quello che devono fare le donne è liberarsi da tutto questo. E il femminile, tutto quello che era appunto, e molto va perlo sulla maternità, e tutto ciò che ha a che fare, cioè tra l'altro è, se volete, anche il marchio più evidente di una differenza, tutto quello deve essere in qualche modo coperto e nascosto, cioè non, insomma, un po' come Platone. E quando facevo riferimento a Platone, perdonatemi l'ultimo riferimento all'oggi, che mi preme, beh, c'è una questione che sembra riproporre questo, questa storia della maternità surrogata, dove c'è il tentativo attraverso processi di assegnare a donne che vivono in condizioni in altri continenti, in altre cose, il compito pesante di portare le gravidanze e fare figli, perché questo è qualcosa che anche alle nostre, in prospettiva, a noi, alle donne occidentali evolute, pronte a competere con gli uomini, ad essere uguali agli uomini, è una cosa che non è meglio lasciarla da altre. Io sono persuasa che, e mi fermo qui, io sono persuasa che queste questioni che sembrano astratte, discorsi un po' così, diciamo libertà, l'umanità, cosa, il simbolo, invece sono delle cose enormemente concrete, hanno a che fare enormemente con la nostra vita, hanno a che fare col modo come noi cerchiamo di affrontare le strutture delle nostre vite, delle nostre esistenze, delle nostre società. E non comprendere, perché questo è, non comprendere che quando si compiono dei grandi passi di modificazione, di cambiamento, poi ci sono dei contraccolpi, bisogna affrontarli. Io ho una storia di femminismo dagli anni, ho combattuto per tutte le grandi battaglie delle donne. Oggi so che abbiamo davanti dei compiti grandi, esattamente perché noi siamo state insieme le agenti di questo cambiamento e che rischiamo di rimanerne anche colpite vittima, e insieme a noi anche un mondo che non trova un nuovo assetto, una nuova forma molto più equilibrata, che data dalla, io dico, la libertà delle donne significa qualcosa che non c'è mai stato nella storia. Il riconoscimento che il genere umano è fatto da due uguali ed entrambi liberi ma differenti è una cosa che non c'è mai stata, non è mai avvenuto, perché la differenza che c'è stata era di subalternità e di subordinazione, non di uguaglianza. Noi ci troviamo adesso in un momento, in una svolta della storia in cui questo, c'è questa possibilità di affermare una cosa straordinaria, entrambi due sessi, liberi, uguali, ma differenti. Vale la pena di provarci a fare. Grazie. Grazie alla dottoressa Izzo. E se qualcuno ha delle domande da porre alla professoressa. Buonasera. Grazie per l'intervento che mi ha suscitato così tante domande che devo fare una selezione. Parto da una che nasce anche da una esperienza di una volta. Mi può dire il suo nome così quando? Ho fatto qualche anno fa. Qualche anno fa ho letto un libro che era scritto da italiani iniziali, che si chiama Un sottomessa. È un libro che poi, da cui poi è stato tratto nel film Sottomessa di Van Gogh, poi ucciso in Irlanda. E lei in questo libro poneva una sfida all'Occidente, che era quella della, in qualche modo, del connubio tra femminismo e multiculturalismo. Cioè, sostanzialmente, in questo libro, raccontando la sua esperienza, sosteneva che in Occidente noi non siamo riusciti in qualche modo a trovare quel giusto equilibrio tra il rispetto di alcuni diritti, come ad esempio i diritti delle donne, e in qualche modo il rispetto di identità culturali che sono diverse dalla nostra e che quindi ci pongono una sfida. E lei ha preso, per esempio, che era agli anni iniziali e che di fronte alla, in qualche modo, alla sottomissione di alcuni diritti femminili, noi non possiamo scendere a compromessi, per cui i diritti delle donne e la libertà non possono in qualche modo essere schiacciati dall'accettazione di quelle che per noi sono diversità culturali. Ovviamente questa posizione è stata anche criticata, quindi volevo sapere qual era la sua opinione. Possiamo, prima che ci siano altre, facciamo di intanto io, come avevo detto, in apertura, non affronto e non mi permetto di discutere e di analizzare o di mettere giudizi su culture che non conosco. Però noi abbiamo su questa è una questione che ci riguarda da vicino, a che fare con prese di posizioni che dobbiamo avere. Io non credo che questo discorso che il femminismo occidentale ha, diciamo, si è mostrato tollerante verso le posizioni, le diversità culturali di altre culture. Fondamentalmente si fa riferimento al mondo arabo-islamico, questo poi è, insomma, il tema più, cioè non facciamo riferimento ai cinesi o altri, ma insomma quello che più crea problema è il mondo arabo-islamico, con, diciamo, la condizione delle donne che rispetto a quella nostra è una condizione di sudditanza e di subalternità. Io penso che adesso noi abbiamo, quando dico noi, cioè una parte del femminismo ha sostenuto che ci sono due aspetti. Uno è il rispetto di alcune norme fondamentali da noi. Qui si rispettano alcune norme che sono comuni e che possono, come dire, consentire l'esercizio di avere dei comportamenti che sono della propria cultura, basta che non mettano in discussione principi per noi indiscutibili. Uno di questi è il rispetto del corpo. È fondamentale. Per noi è l'inviolabilità del corpo, per noi è un principio fondamentale. Non ci possiamo assolutamente accettare che venga violato e abusato il corpo, che da questo punto di vista le mutilazioni sessuali non sono consentite. Questo. Un'altra cosa è, per noi è per l'identità, per il rispetto della persona, la riconoscibilità del vuoto. Lo dico così. Il burka o il niqab da noi non può essere. La persona si deve vedere. Il velo per me non fa un problema. Io non ho. I francesi sono impazziti sul velo perché hanno un'idea di laicità che è pazzesca, però ce l'hanno con tutto, cioè uno non si può portare il crocifisso, uno che appende il crocifisso non può, e per questo il velo. Io, tra l'altro, insomma, può darsi che ho una certa età e vengo da un paesino meridionale. Le donne, le vecchie, le nostre donne andavano col velo. A me questa cosa non mi ha fatto mai una grande impressione da questo punto di vista. Perché? Perché anche in questo è però il mio femminismo, mi aiuta se volete. E che la libertà, cioè quella che noi pensiamo, non può essere mai data, ma deve essere conquistata. Bisogna che ognuno ci arrivi attraverso i propri processi. L'idea di imporre la libertà, quella che noi consideriamo libertà, cioè di imporla, che sono cose diverse, quello di vietare alcuni comportamenti e alcuni atti che ledono le nostre leggi comuni, chi sta sul territorio italiano dove ci sono queste leggi le rispetta. Come le rispettiamo? Questo è un principio. Non sono d'accordo invece con l'idea che noi dobbiamo imporre alle donne i comportamenti che sono nostri. Io avevo un'amica che è una sociologa marocchina che diceva: attenzione, perché certo noi ci abbiamo il velo, ma voi ci avete la taglia 42. Voi ci avete la taglia 42 e in più ci avete quasi l'obbligo di spogliarvi. Allora lì abbiamo avuto una bella discussione. È una donna straordinaria, una grande combattente per la libertà delle donne marocchine. Ma appunto c'è bisogno di un'elaborazione per essere liberi, non, la libertà non la si dona, la si conquista la libertà. Perché deve, appunto, perché qualcosa che deve maturare deve cambiare forme, deve cambiare rapporti, deve cambiare. Altrimenti rischiamo proprio di fare operazioni terribili, di pensare che. Perché non è vero che noi siamo il modello di libertà, davvero quello che provavo a dire, non è che siamo un modello di libertà per il mondo. Gentile professoressa, 400 donne assassinate nel Messico, senza sapere perché. 14.000 uccise ogni anno in Russia, quella post-sovietica. 1.800 in Pakistan per motivi d'onore. 2.000 sfigurate con l'acido in Bangladesh. Velate per non indurre in tentazione. Lapidate perché adultere. Mutilate in eredità ai parenti del marito morto. Le percentuali non hanno conto, né nome, indicano soltanto che, a dispetto delle molte rivoluzioni, la vita delle donne nel mondo peggiora tra stupri, maltrattamenti, violenze. Si potrebbe compilare una triste enciclopedia. Ogni anno nel mondo le spose bambine sono 15 milioni, una sposa coatta ogni 2 secondi. Tra 4 anni le spose bambine saranno 140 milioni. Da tempi molto recenti il femminismo ne ha una gran parte del merito, le donne hanno acquisito la libertà di poter agire, finalmente disintermediate dal mondo. Stanno conquistando spazi e ruoli pubblici, istruzione, riconoscimento di diritti fondamentali e la libertà di scegliere che cosa essere. Ma quest'ultima porta con sé un'ulteriore presa di responsabilità e su questo molte donne non si sono dimostrate direttamente pronte. Spesso la colpa è di voi donne che non provate abbastanza, vi autocensurate e siete insicure. Non alzate la mano quando dovreste, il soffitto di cristallo si può infrangere, basta volerlo. Le donne dovrebbero sedersi al tavolo, ricercare sfide, assumersi rischi e perseguire i propri obiettivi con determinazione. È vero che oggi ci sono quelle che si chiamano veline, c'erano anche ieri e sono le donne che l'uomo vuole, sono le donne raccontate da Italiano Brancati ed Alberto Moravia. L'importante è non fare come Marlene Dietrich, cominciava con una carezza e finiva con un colpo di sudicio. Grazie. Un attimo, vediamo se ci sono altri. Io? Sì. Grazie. Buonasera, io sono un po' più pratica, professoressa, sono un po' più concreta. Allora, innanzitutto notavo che questa sera la platea è prevalentemente di adulti, no? C'è qualche signorina, ho visto qui davanti, la cosa mi entusiasma perché sono pochissime le ragazze che si rendono conto di quello che sta succedendo. E queste giovani donne poi ci sbattono il muso quando si sposano e devono fare figli, prima non ci pensano, no? E devi fare proprio un grosso lavoro dietro, io insegno materie giuridiche ed economiche, sono lì a discutere, riporto gli articoli, vi parlo della violenza economica di genere, vi faccio capire che noi siamo comunque uno Stato che ha visto la riforma del diritto di famiglia nel 75, il codice Rocco la violenza sessuale nel 96, che i congedi parentali sono arrivati nel 2000, cioè cerco di educarle lentamente, ma loro non sentono, non gli interessa. Io sono grata alla sua generazione perché io ho giovato di quello che avete fatto voi. Io ho 55 anni. Quando ero all'università nessuno dei miei compagni di corso si sarebbe sognato di dirmi tanto tu dopo non devi lavorare. Si sta tornando indietro, è una cosa inquietante. Inquietante perché prima di tutto non lo percepiscono le ragazze. È inutile che ci giriamo intorno. Una persona, lei ha detto una cosa bellissima, lei come ha detto per gli antichi greci, chi lavorava non era libero e le donne non erano libere. Stiamo tornando alla stessa situazione, perché di fatto la gente che lavora e vive condizioni di lavoro che questo neoliberismo ha esasperato non è più libera, perché per sopravvivere deve fare due o tre lavori e vive in condizioni non di che può essere l'operaio, l'insegnante, la commessa, chiunque, e le donne che guarda caso tutte queste politiche, adesso mi tirerò dietro l'ira delle presenti in sala, per esempio quando hanno fatto questa opzione donna, ho detto perché non fanno un'opzione uomo? Cioè tu praticamente devi lavorare una vita, te ne devi andare in pensione a 57 anni con la metà del reddito per dipendere ancora per il resto della tua vita da qualcun altro che ti mantiene. In Italia il 50% delle donne dipende da un uomo, cioè dipende da qualcun altro che lo mantiene, la mantiene. E questo non capiscono, cioè io per le mie figlie il lavaggio del cervello lo prenderò più, cioè, ve lo ripeto continuamente, poi gli dico sempre non date per scontato quello che vedete in questa casa, cioè faccio in modo di darvi gli strumenti per essere indipendenti, però dico non date per scontato il fatto che sia così, andate a lavorare, rinunciate allo stipendio, pagate in babysitter, ma al lavoro non rinunciate mai, vi sposate un uomo ricco, vi mette a disposizione 10 carte di credito, bene, continuate a lavorare. importante, professoressa, perché l'indipendenza avviene anche attraverso l'autodeterminazione, avviene anche attraverso l'indipendenza economica. E purtroppo adesso stiamo, sì, lei non ha detto il contrario. No, lo è, però anche questo aspetto simbolico, io penso, io sono cattolica praticante, che è un peso pesantissimo in Italia, l'ha avuto proprio la religione cattolica, che ha frenato moltissimo l'emancipazione femminile, perché il ruolo della donna viene visto in un certo modo. È così. Ma poi. Cioè, ci sono tante sfaccettature, indubbiamente ci sono tante sfaccettature, però io mi trovo con queste ragazzine che sono libere di andare a destra e a sinistra, di prendere l'aeroplano, andare alla Sole a Dublino e poi non so da un'altra parte, e poi non si rendono conto che non stanno, che stanno perdendo terreno su tanti altri fronti. Non se ne rendono conto. Grazie. Grazie. Perché io mi vengo, scusate, adesso poi mi viene da dire perché? No, perché questa questione delle giovani generazioni è quello che lei mi dice adesso, io me lo, a parte diciamo per esperienza diretta, insomma, ma è qualcosa che circola. E perché accade questo? Perché le giovani donne non si rendono conto di che cosa le aspetta e di quali sono le condizioni vere e che vivono in questa, non si sa bene, insomma, in una specie di bolla, per poi arrivare a un certo punto, arrivare a 33, 34, 35 anni e prendono delle mazzate sulla capa che Dio solo lo sa. Insomma, ma questo è un bel problema, ma è anche un problema delle generazioni, però perdonate, mi ci metto io, ma bisogna che ci si mette anche lei in gioco e anche quelle che vengono dopo, perché è sembrato che fondamentalmente le cose andavano bene, un po' più di diritti, adesso... Perdonatemi, ma adesso stiamo andando sul pratico, lei ha voluto chiamarmi sul pratico, allora scendo dalla piattaforma filosofica e arriviamo al pratico politico. Io considero un peccato, ma bene, un peccato politico, perché sono grandi quelli, il fatto che movimenti, associazioni, gruppi. Io, c'è stato Verona che hanno voluto affermare diritti, libertà, è mai possibile che nel 2019, con questo po' di problemi che ci abbiamo e che nascono, gli unici terreni su cui si mobilitano, si provoca un ambaratan, si fanno dichiarazioni di fuoco da tutte le parti, è difesa dell'aborto e difesa di diritti civili acquisiti, che francamente nella situazione generale sono quelli meno messi in pericolo, e invece sono, bisogna sempre combattere e difendere, perché nulla mai è dato per scontato, per carità. Ma ci sarebbe qualche problema serio, nuovo, su cui creare e mobilitare e creare qualche diciamo eco forte che arrivi fino a mettere in discussione assetti ed equilibri, per cui è vero quello che lei dice. Allora, sono pensioni, in questo paese ci sono le pensioni che attirano le cose e un po' di... Ma che ci siano movimenti di massa, e quindi fatto da donne che hanno non sono le ragazzine, perché questo è, che sollevano come questione fondamentale quello del nesso maternità-lavoro, e condivisione. Ma c'è, non esiste, anzi viene considerato qualcosa di reazionario, viene assegnato come qualcosa che non appartiene alle battaglie delle donne. Scusatemi, perché è una cosa che, perché è quello che produce. Non esiste, cioè insomma, è questo. Sono i terreni su cui abbiamo, scattano una specie di riflessi condizionati, scattano la reazione e ci sono mobilitazioni. Sono quei due. Mi scusi, professoressa, ma fare una battaglia sulla maternità e lavoro significa, siamo oggettivi, toglierci una parte di ammortizzatori sociali e di welfare che le donne fanno gratuitamente. Perché se le donne, quando fanno un figlio, se ne restano a casa, non devi fare le asili nidi, non devi dare il bonus, c'hai la... Ma sto dicendo questo, sto dicendo che quando... Ma è quello che provavo a dire anche raccontandovi di filosofia. Quando dico se si mette questo, significa cambiare gli assetti sociali, significa fare un'altra legge di bilancio. E significa mettere in discussione i modi con cui ha funzionato la contrattazione e il welfare fino adesso. Ma è ovvio, è una battaglia terribile, non a caso. Io vengo anche da... Adesso, perdonatemi, sì. Ho cambiato stile. Sì, ma è diventato molto napoletano, lo apprezzo molto. Beh, sì, come dire, viene fuori un pezzo. Viene un pezzo. Voglio dire che... Io ho anche, appunto, anche una storia, appunto, di battaglie e anche di tentativi di intervenire e di cambiare nella sfera politica. Quella è una battaglia difficilissima. Perché? Perché le donne non sono riuscite, non siamo riuscite a creare una forza d'urto potente, come c'è stata nel passato. E tutte invece le forze organizzate puntano ad altro. Adesso lo dico, tra i partiti, i sindacati, sono interessi costituiti, perché si tratta di intervenire e di cambiare assetti, equilibri. Significa mettere in discussione alcune cose esistenti per farne delle nuove, perché questo è innovazione. Ma non c'è né, quando io dico però, ed è mia esperienza personale, quando io parlo di maternità in luoghi femminili femministi, vengo vista male. È chiaro, vengo vista come una reazionaria, perché sta parlando di una roba che, insomma, ma come? Vuoi fare figli alle donne? Ci siamo finalmente liberate di questa cosa, tu vuoi fare? Così dicono Freud e di Schopenhauer, si fanno il concetto che la donna, noi siamo funzionari della specie, e per cui questo mi sembra... Veda, e io devo scappare purtroppo, lei con questo intervento e anche gli interventi dei colleghi ha aperto un'infinità di cose, tipo, non mi sentite? Sì, sì, okay. Sì, ha aperto un'infinità di problemi che ammetterebbero ben altre cose. Il discorso dei giovani oggi che vivono nel nichilismo, che è una cosa molto inquietante. C'è sempre un perché nelle cose, però alla fine, e qui ripeto, vado, è una questione culturale. Vede, le devo dire francamente, quando l'uomo non è uguale alla donna, perché l'uomo è inferiore, la donna è superiore, è che probabilmente voi non la sapete utilizzare nel modo giusto, sì, perché avete più cicche, anche perché siete due, non uno più uno, o uno e l'altro, quindi proprio perché procreate avete anche questa capacità di avere questa cicche maggiore rispetto all'uomo. L'uomo è matematico e logico, punto, pensa al suo lavoro e non va oltre, e quindi dovete, io penso che dovete educare l'uomo a riconoscere nella donna. Ma le dirò una cosa, io vengo dal mondo economico e ho visto delle donne arrivare a una certa posizione. Sa che cosa faceva la donna? Secondo me l'errore più grave che fa, quello di voler competere con l'uomo, voler fare addirittura andare al riadelo sia se stessa. Come diceva l'oracolo di Delfi, visto che lei parla di filosofia, sii te stesso, guarda per quello che tu sei nato, per quello che tu sei bravo. Però diceva un'altra cosa molto importante, rispetta il tuo limite. Ed è quello che forse molte donne vanno a cercare, oltrepassano i limiti rispetto all'uomo e non tengono conto invece della grande possibilità che hanno. E io credo, e concludo, che oggi come oggi, se la donna dovesse prendere il governo del mondo, sicuramente le cose potrebbero andare meglio, ma probabilmente ancora non è preparata per questo. Grazie e vi auguro buona serata. Scusate, che mi sarebbe piaciuto proseguire. Mi chiamo Ornellini, visto che devo sapere. Volevo solo dire una cosa bravissima, mi capita. Ma i problemi sono tanti. Ma ne sono tanti. Complimenti per avere. Ci sono gli uomini che si sentono sempre in dovere di fare le paternali e dire alle donne cosa devono fare. Loro sono sempre più bravi. Sbagliano sempre. Sbagliano sempre qualcosa. No, e poi volevo aggiungere un'altra cosa, che non è un problema di. Donne, questo che lei ha portato è un problema di tutti, per cui voglio dire nessuno si senta fuori, nessun uomo si senta fuori, non è un problema solo nostro, assolutamente, perché sennò non lo risolveremo mai. Però dobbiamo prendere, cominciare, se ci sono altre cose, volevo anche... se sono stato concreto o meno, perché sono preoccupatissimo. No, guardi, lei ha fatto l'elenco delle tragedie che vivono le donne nel mondo e anche in Italia. Sì. Femminicidi in forme diverse, perché questo è, tra l'altro, non ne abbiamo appunto, anche come frutto di un cambiamento della situazione delle donne, cioè sono gli uomini, alcuni uomini non riescono ad accettare il fatto che le donne possono dire no, possono dire dobbiamo finirla qui, non accettano il rifiuto, non sono abbastanza forti da reggere il rifiuto, e quindi noi abbiamo delle condizioni. Però appunto il voler attribuire, però insomma, questo va benissimo a tutta la prima parte di questo elenco di condizioni pesantissime in cui vivono le donne, e quindi la necessità di un cammino lungo, faticoso, perché condizioni di vita umane per le donne nel mondo si possano stabilire. E però poi ci fa anche la predica, no, la predica no, però perché appunto dire che noi non siamo abbastanza capaci di intervenire, di rompere il soffitto di cristallo, e la vita delle donne sì. È molto complicata. Professoressa, lei dice predica, perché non vogliamo, parafrasando, dire consigli amorevoli, sono... Ma anche io però darei anche dei consigli agli uomini per fare anche un po' loro di parte. Sono un uomo preconcettualmente dalla parte vostra. Riconosco la vostra superiorità, anche il fatto di uccisioni di tutte queste donne da parte degli uomini dimostra la nostra inferiorità. Platealmente lo dimostra, cioè non all'altezza di determinate situazioni che possono essere anche scabrose. Io guardi, le dico una cosa. Prego. Io capisco che una delle cose più difficili, anzi alla fine abbiamo dovuto rinunciare, io faccio parte di un'associazione, di un gruppo di donne, e facciamo iniziative, cose varie. Per me è molto importante avere l'esperienza di un gruppo di donne, aiuta ad affrontare le cose. Noi abbiamo, dato che siamo d'accordo, molto profondamente d'accordo, come diceva prima la signora che ha parlato per ultima, che queste sono questioni che dobbiamo affrontarle insieme, uomini e donne, non possiamo affrontarle da sole. E dobbiamo quindi riuscire a condividerle con gli uomini. E noi abbiamo tentato di aprire il nostro gruppo agli uomini e proviamo a discutere insieme delle questioni, a vedere, ma anche a metterci in discussione. Sono Sì, ma vede, non ha funzionato, non è stato possibile, e neanche tra gli uomini. Sì. Dovete vedervi tra... Io lo dico ai più giovani. Fate quello che abbiamo fatto noi, dovete cercare di... Non dovete dire a noi, io lo capisco. Siete uomini generosi, anch'io ho un marito generosissimo. Ho un marito generoso che vuole. E però provo a dire a lui come a tanti altri, provate a fare, perché voi dovete fare un pezzo di strada. Se volete essere i compagni di donne libere, certo. Ma non parlo con lei, dico agli uomini in genere, dovete fare un lavoro su di voi, dovete fare un lavoro non solo nella vita personale, ma anche per cambiare la testa di chi governa, di chi c'ha in mano, perché poi voi ci dite che noi siamo superiori, no. Ma fino adesso chi governa e chi fa le cose, chi decide, sono tutti uomini. Professoressa, mi faccia dire, la questione di interloquire con le persone oggi è diventata una cosa quasi impossibile. Sì. Trovare degli interlocutori validi con i quali poter un momentino discutere è difficile nella vita di oggi a tutti i livelli. Non le capita spesso di parlare con una persona di un determinato argomento e quello risponde tirando fuori una cosa che non c'entra niente? Quindi la difficoltà è nel dialogo. Sì. Stabilirlo, ma con chi? Bisogna prima stabilire una persona che ascolti quello che uno dice. Adesso non voglio parlare di suo marito, perché no. Mia moglie, noi ci dialoghiamo ovviamente, e poi io dico, se qualche cosa che io dico non ti garba, diciamo così, parliamone. Questo quando parlavo del gruppo, intendo dire, non era la relazione personale, era lì, diventava una questione dove si mette il tema. Ma io penso che tra gli uomini dovrebbero, insomma, quello che hanno fatto le donne dovrebbero farlo anche, molte donne dovrebbero farlo. Uomini fra uomini, è molto difficile. Molto difficile, ma lì è un passaggio. E lì ho cercato di limitare e fare molte risposte invece di lasciare il tempo alle conversazioni, così di formulare magari in maniera un po' più strutturata alcune risposte, perché alcune questioni sono state giustamente poste sul terreno molto, o sul piano della relazione o sul piano anche del giro politico, ed è stato anche affrontato. Sarebbe interessante anche ritornare magari ad alcune questioni di carattere anche proprio strettamente teorico, diciamolo così, ma non perché non si voglia poi confrontarsi su degli strumenti assolutamente veri, reali, ma perché probabilmente è anche utile in questo momento focalizzare l'attenzione anche su alcuni passaggi che sono stati sollecitati dalla relazione, cioè dall'impianto culturale complessivo. Io mi permetto solo di fare un paio di considerazioni in forma di questioni che pongo, però ecco, cioè il primo è che anche questa sera ci siamo trovati a confrontarci molto, anche in maniera molto viva e vivace, come poche volte accade anche nel contesto del caffè filosofico, perché insomma genere, per carità, c'è sempre un bel dibattito, però così partecipato è accaduto poche volte, posso dirlo decisamente, perché tocca. La questione esattamente tocca nel profondo, tocca le vite, tocca le esistenze, tocca anche il sistema di rappresentazione complessivo del contesto in cui tutti viviamo e in cui anche le nostre stesse identità vengono chiamate in causa. Cioè c'è qualcosa di assolutamente profondo che viene toccato dal sollecitare la questione della differenza, perché è la questione della identità e delle identità al plurale. Questo aspetto così complesso da riuscire a collocare dentro la sfera del pensiero occidentale, in cui la differenza e l'uguaglianza si toccano. Qualcosa che concettualmente non trovo neanche dei termini per esprimersi, perché c'è una lunghissima tradizione, più che millenaria, che ci obbliga in qualche modo a fare la scelta. no, la cesura, siamo ancora nel dia, la separazione, e quindi questa dimensione continua a operare e in qualche modo ci rimane, e probabilmente c'è qualcosa di ormai strutturalmente collegato a molte forme del pensiero occidentale che rendono questo un ostacolo, chiamiamolo comunque un paradigma con cui occorre confrontarsi, certamente. Io mi permetto di dire che però negli ultimi 50 anni intravedo anche degli aspetti, ma penso che il dibattito anche, diciamo, nel senso filosofico-politico in modo particolare, presenti un'attenzione mai vista prima nei confronti di un'articolazione più ricca e ricca di sfaccettatura che quelle che abbiamo sentito questa sera, chiamano in causa la dimensione dell'agire, chiamano in causa la dimensione del pensiero che si fa anche, che si pone il problema dell'agire, come capita in pochissimi ambiti del pensiero, cioè lei come me facciamo riferimento anche spesso a un'autrice che è Hannah Arendt, che è una figura che nel Novecento ha fortemente ricollocato, pur non essendo una pensatrice femminista come ben sappiamo, ma che ha posto con chiarezza alcune questioni rispetto al tema anche della differenza, di come pensare indifferente nel termine della pluralità, così come una riscoperta in termini anche teorici fondamentale del tema della natalità, che è un concetto assolutamente che non va letto in chiave estetizzante, va letto in una chiave provocatoria anche da un certo punto di vista, confrontandosi peraltro proprio con Agostino come punto di partenza, perché lì ci sono degli elementi che tornano, degli elementi che in qualche modo si tengono. Su questo, ecco, mi sembra di dire che è una fase in cui alcune questioni si stanno ponendo sul tavolo. Fa un po' impressione, ecco, vedere che l'agire politico sembra essere scisso da questo, cioè l'osservazione che lei faceva questa sera non è un'osservazione di colore, è un'osservazione molto pertinente, mancano le modalità con le quali, non solo in Italia, va detto questo, in molta parte della cultura occidentale, che dell'agire politico occidentale, rispetto a questi temi c'è una forte elusività, è come se fossero dei temi che però non possono rientrare nella sfera dell'agire politico o non hanno trovato lì la giusta collocazione. Quest'anno è anche, in qualche modo siamo negli anni delle commemorazioni, 50 anni passati dal 68, dal 69, eccetera. Le questioni forti poste anche dai grandi movimenti innovativi che hanno caratterizzato la seconda metà del Novecento, in qualche modo sono oggi stati rimossi. La rimozione di cui si diceva anche generazionale, che oggi si conosce, è qualcosa che ha a che fare con le strutture culturali profonde anche, non solo della realtà italiana, ma di quelle che sono molte forme di rappresentazione culturale che ci caratterizzano, no? La difficoltà di individuare modalità, ruoli, identità fuori dai cliché che ogni tanto ritornano, e ritornano oggi potenziati da sistemi di comunicazione potentissimi che riproducono in maniera reiterativa stili, comportamenti, cliché, eccetera, che schiacciano fortissimamente anche l'immaginario di intere nuove generazioni, no? In cui le codifica anche dei ruoli, dei comportamenti, degli stili, eccetera, riproducono cliché fortemente sessuati in un'accezione di potere anche, no? Ed è qualcosa che oggi, ecco, a me veniva in mente anche su questa cosa qui, che forse è il caso di cominciare forse a fare sintesi rispetto a alcuni spunti, no? Cioè si tratta di vedere se alcune questioni possono essere riportate dentro alcune luci di comprensibilità. Io non mi stupisco che le nostre figlie, le generazioni più giovani facciano fatica a riconoscere questo, perché i linguaggi sono in gran parte esplosi, quelli che tentavano di affrontare in termini diversi questo diverso modo di rappresentazione dei ruoli. Occorrono forse nuovi linguaggi in qualche modo, su cui siamo, credo, tutti chiamati in causa, cioè, ma c'è un problema però di fondo, che oggi, e penso che stasera sia esemplare anche, lo strumento culturale è stato un grande strumento di forte emancipazione anche della nuova soggettività femminile, o quello che può dire oggi anche in termini molto complessi e forse anche conflittuali con altre soggettività. L'anno scorso io ho assistito a un bellissimo dibattito proprio all'Università di Verona, in cui c'era lei per la relazione, su temi caldi, caldissimi, in cui nuove identità, che sono quelle di figure che faticano a riconoscersi oggi nei generi sessuati tradizionali, si sono confrontati in maniera molto aspra con figure per me quasi leggendarie, come lei, Adriana Cavallero, del pensiero della differenza. Ed era molto esemplare questo confronto, questo scontro anche, perché colloca altri scenari che si stanno aprendo e che fanno parte della quotidianità di adesso. Ma su questo vorrei dire. Ecco, l'ultimissima osservazione, in coda a questo. Cioè, oggi il tema della, diciamo così, la dimensione della rappresentazione collettiva, a me ci sono un paio di autori che mi frullano tanto la testa, uno sicuramente mi ha ricordato qualche tempo fa Guy Debord, i vecchi situazionisti, la società dello spettacolo hanno prefigurato qualcosa che sta accadendo, flash di situazioni in cui mettiamo in scena dei sistemi di rappresentazione che sono sistemi di un secondo è Michel Foucault. Le forme nuove della biopolitica, attraverso il corpo delle donne passano nuove forme di controllo politico. E per quello che la politica, ancora attraverso strutture tradizionali, fatica a confrontarsi su questi temi. Non riesce a trovare la collocazione, è come se ci fosse una sorta di switch concettuale. Terza figura, Jean Baudrillard, la feticizzazione. Mi vengono in mente che, ecco, alcuni aspetti, c'è un bel vecchio libro del 77 di Baudrillard, che era Lo scambio simbolico e la morte, dove guardava in faccia uno dei caratteri che sembrano essere più tipici del sistema di rappresentazione culturale contemporanea, la costruzione di fetici che continuano a farci oscillare tra la rappresentazione della realtà e una rappresentazione posticcia, in cui il tema della corporeità torna di nuovo molto presente. Ecco, io mi scuso della lunghezza della cosa, però mi pareva opportuno forse fare un po' di raccogliere un po' di sollecitazioni e riportare sul terreno teorico, perché forse anche qui la teoria ogni tanto si fa anche terreno giusto di confronto. Certo. Ci sono. Professoressa, grazie infinite. Scusa se sono stato promesso. No, non sono un cicciolo. Lei lo capisce bene, davvero? Mi saluti un attimo, vieni. Ci sono altri? Se no? Allora, adesso... Madonna, sono le altre. No, abbiamo chiacchierato un po'. Troppo forse. Volevo in coda, sempre tenendo tutta l'ultima parte del libro è dedicata anche a una discussione delle questioni che scusate il nome, Andrea Andrea sollevava. Io è vero, appunto, negli ultimi 50 anni. Questa questione di come si tiene assieme l'uguaglianza e la differenza, di cui il genere umano è l'espressione massima, è stato al centro di riflessione e pensiero filosofico anche insomma, molto, molto denso, molto ricco. C'è una figura che non si chiama Lucy Rigaray, che è una pensatrice che ha ci ha posto, insomma, come anche le italiane, la Muraro, insomma, c'è un vasto che aiuta a pensare questo e anche altri autori o autrici importanti. Qual è il punto? Che, per esempio, io discuto nell'ultima parte del libro e che in qualche modo era nella premessa che ho fatto, che è quello che mi ha spinto anche a scrivere il libro. È che, lo dico così tanto, che questo filone anche di pensiero, in relazione anche all'agire pratico politico, perché anche qui non è astratto, era proprio la grande ondata del femminismo degli anni 70-80, a un certo punto ha impattato una elaborazione, diciamo quella gender oriented, che veniva dagli Stati Uniti e di cui un titolo, un nome, figura importante è la Butler, la Judith Butler, che diciamo appunto, e qui io ho proprio un'obiezione filosofica di fondo, proprio, che a partire dalla giustissima battaglia in favore del riconoscimento pieno delle identità sessuali non eterosessuali, cioè della battaglia per il riconoscimento degli orientamenti gay e lesbici, o anche altri orientamenti, ha, come dire, operato una destrutturazione del paradigma della differenza e anche della stessa idea di due sessi come fondamentali, e per quanto riguardava le donne, nella non esistenza, proprio non consistenza e non esistenza del soggetto donna, e quindi anche una destrutturazione dello stesso soggetto collettivo, della stessa possibilità di un... In questo confluivano anche altri discorsi filosofici, la faccio breve. Ecco, io considero questa corrente, che è diventata, come dire, quasi maggioritaria nell'ambito del pensiero, questa corrente ha avuto una larga diffusione nelle università, nei testi, la pubblicistica, e anche tra le giovani generazioni, quelle acculturate, sono sensibilissime a questa posizione. Il pensiero della differenza è diventato un pensiero quasi obsoleto, e io lo considero, lo dico così, come un enorme equivoco. Lo considero un enorme equivoco perché io penso che, e si può provare ad argomentare, proprio dire che il genere umano è fondato da due sessi, che c'è una configurazione bisessuale, questo non mette in discussione gli orientamenti sessuali dei due sessi. Questo è una marca antropologica che sta al fondo. Gli orientamenti è una cosa assolutamente, se volete, a un livello diverso, se vogliamo stabilire dei livelli ontologici, a un livello diverso. Ma non a caso poi ce lo ritroviamo, se poi uno va a analizzare gli orientamenti, ma insomma è un uomo che ama un altro uomo, che ha queste tendenze, va benissimo, ma è un uomo che ama un altro uomo, oppure una donna che ama una donna, oppure bisessuale, ma non cambia, oppure si può cambiare sesso, ma non a caso si cambia sesso, un uomo che diventa una donna. Ma il gioco possibili e le varie alchimie che possono essere fatte, non a caso partono sulla base dei due sessi, ed è quello il problema, che non ha rappresentazione nella nostra struttura simbolica, o se ce l'ha, appunto, ce l'ha avuto e ce l'ha nella forma o della differenza funzionale e gerarchica, allora uno fa una cosa, l'altro fa l'altro, e in questo fare c'è una disuguaglianza che si esplicita, perché il fare dell'uno è superiore all'altro e copre i livelli alti dell'umanità, l'altro invece no, oppure si possono anche invertire nelle società matriarcali, ma non cambia la questione, non cambia la questione. Oppure c'è l'altra cosa del tentativo di negare la differenza, andiamo verso il neutro. La neutralizzazione, io considero il percorso verso della neutralizzazione come il modo con cui noi affermiamo e riconosciamo le differenze, un abbaglio teorico e un disastro sul piano politico, se vogliamo dirla così. Io ho questa convinzione, perché io, ma non solo personalmente, ma anche la cosa, considero che il riconoscimento delle differenti identità sessuali sia una cosa fondamentale, è un fatto di civiltà, cioè proprio è una condizione di umanità e di civiltà. Ma che questo debba essere giocato sulla, nella chiave, come da Butler l'ha giocato, ma da lei a venire giù, come avere come premessa la distruzione della, della differenza di sesso, perché questo sostiene, perché lì c'è come un'imposizione che ci sono due sessi. No, i sessi devono essere, c'è una scala indeterminata di singolarità. Io considero questo anche il frutto di una costellazione culturale, filosofico-culturale, che proprio adesso, perdonatemi il cortocircuito filosofico-politico, ma diciamo i temi lo consentono, proprio di una particolare temperie che si è stabilita dopo gli anni 70, che ha, temperie culturale ma anche politica, che ha teso a mettere in discussione ogni soggetto collettivo. Esistono solo gli individui, esistono solo i singoli, ed è solo rispetto a loro che vanno stabilite le cose. Ogni forma di elemento universale o generale è una forma di oppressione dei singoli, è una forma lieve o pesante di totalitarismo, perché questo è stato uno degli elementi. E noi ci troviamo adesso nella difficoltà addirittura teorica di pensare soggetti collettivi e di azione collettiva. La stessa Butler, in saggi recenti, in prese di posizioni recenti, è tornata autocriticamente su questo punto, giustamente, perché è una donna che combatte dalle parti giuste, è una donna combattiva che combatte per i diritti e per stare tutti bene, insomma, non è. E però si è resa conto anche degli effetti, dei controeffetti di una battaglia che voleva includere, ma che però alla fine ha, come dire, smantellato e tolto strumentazioni, quello di soggetti collettivi. Politica non si può fare, politica anche per, non si può fare senza avere un'idea di qualcosa che vada oltre il soggetto, oltre l'individuo. In questo anche una, Foucault, l'ultimo Foucault, ci ha messo del suo anche su questo. Ecco, allora, in qualche modo, cioè adesso, se ci ha fatto capire alcune cose, diciamo così, un pensiero postmoderno che ha, come dire, smontato delle costruzioni che erano oppressive, e anche il femminismo se ne è giocato in tutto, se ne è avvantaggiato in tutto. E poi però degli effetti portati agli estremi hanno come creato un mondo dove ognuno è una monade, cioè questa singolarizzazione che impedisce l'idea di costruire su elementi comuni. Io sono una, questa storia poi, io sono una donna, ma se siamo nere, siamo bianche, siamo eterosessuali, no, omosessuali, gay, nera, cioè, intersezionalità, per cui come si fa a stare insieme? Però siamo delle donne, siamo tutto questo, è vero. Io mi ricordo che quando abbiamo cominciato noi, all'inizio degli anni 70, quando siamo donne, ci siamo messe i collettivi, le cose unite, e allora veniva l'obiezione: ma come? Voi insieme? La casalinga e l'agnelli, come potete essere? Gli elementi siete talmente diversi. Se avessimo, e quindi era, diciamo, il classismo che interveniva a dire: ma non potete stare insieme, siete talmente diversi, ma come? La Marella Agnelli e la casalinga si devono combattere insieme perché sono donne, che senso ha? E noi abbiamo detto sì, Marelli Agnelli e la casalinga di Voghera hanno una cosa in comune, e noi su quello andiamo, perché far valere il principio di classe era fare la battaglia di carattere economico-sociale. Noi qui stavamo rivendicando una roba che appunto accomuna, scava e nei gruppi di autocoscienza scavavamo esattamente quello, al di là delle nostre differenze, delle differenze di classe, delle differenze di cultura, delle differenze. E tu arrivi a un fondo che accomuna le donne. Poi tutto il resto bisogna ricostruirlo, perché le differenze ci sono anche tra le donne, e quante. Però altrimenti non sarebbe mai nato il femminismo, se non trovi il fatto che siamo delle donne con tutte le differenze. E tra l'altro il femminismo italiano ha avuto una grande forza: non ha fatto valere per un lungo periodo le differenze di orientamento culturale. Noi ci siamo trovate, questo è stato molto importante, eterosessuali e lesbiche insieme, che invece negli Stati Uniti non è stato così, si sono rotte subito, anche a partire dalla differenza razziale, le nere e le bianche, che è stato poi un limite. Ma questo è stato un patrimonio fondamentale, perché altrimenti, a guardare, se non hai questa ottica, che esiste al di là delle differenze questo nucleo, questo fondo dell'essere una donna, ecco, e lo dico così, uno sguardo come quello che per esempio io, ma mica solo io, tantissimi, hanno gettato sulla storia, a guardare da questa prospettiva non era possibile, perché sono nella storia, esistono tantissime altre differenze che contano e organizzano e strutturano l'esistenza. Ma questa, essere una donna, che cosa questo significa? E guardarlo nella storia, che cosa è stato e cosa può essere, questo è venuto da quella visione lì, dal fatto che esistono le donne. È una, se vuoi, è una costruzione che però ha un fondamento, è anche una costruzione intellettuale, ma è potentissima, ti aiuta a capire e anche a cambiare. Non lo so se... Va bene.